Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. No, ma cosa fai? Ma subito così. Ma capa, salute. Salute e scusate cari radioascoltatori. Questo è un inizio proprio di quelli sono che... Sono le graminare, graminacee. Sì, sei un po' allergico, eh. Già, però mi hanno detto anche che succede che ti viene da starnutire se ti ecciti. Vabbè, ti ecciti da quel punto di vista, da sessuale. Sessuale, ma sessuale, perché nel naso ci sono dei tessuti erettili. E quindi se ti, vabbè, quindi... si erige tutto, compreso quello... E quindi... ho capito. Hai capito. Però ho non capito. So cos'è che mi potrebbe eccitare qui in questo momento. No, se non da quel è... punto... Carmelo... No! È passato, dai. Passata l'eccitazione così. Sì, vabbè. Così. Guardato te. Va bene, dai, allora cominciamo con le cose belle, con le cose serie e tristi e belle allo stesso tempo. Come bello, sembra che la nuova manovra economica, che ancora non si sa se passa o non passa, insomma, è tutto lì, punti soprattutto al gioco. Cioè al gioco in che al senso? Al gioco. È una manovra con tanto gioco dentro. Quindi una manovra per i bambini. Giochiamo, bisogna tornare bambini, continuare a giocare. Sì, continuare a giocare d'azzardo. Lo Stato vuole che si continui a giocare d'azzardo perché ci saranno 7.000 nuovi punti per le scommesse sportive. Al momento in Italia sono solo 2.000, quindi 7.000 in più. Bene. E poi ci sarà la liberalizzazione del poker che si potrà giocare nelle sale di qualsiasi circolo. Giusto, ormai lo fanno in TV da tutte le parti, bisogna poterlo giocare anche dal vero. Mille concessioni da 100.000 euro l'una. Una botta sola. Quanto in tutta fa? Italia sono 100.000, milioni. Milioni e poi milioni. Slot machine le da stelle dappertutto. Di Negroni, ma dai Drago, capito? Ma le che te frega delle slot machine, tanto quelle sono nelle mani della mafia cinese, no? Le slot machine, mafia cinese, certo. Guarda che se stai attento quando vai in un bar in cui ci sono le slot machine, vedrai che c'è sempre un cinese che fa la guardia alle macchinette. Non può darsi, sta non lì ma non gioca, hai capito? E cosa fa? Sta lì al telefono sì, perché all'improvviso poi lui cambia un sacco di soldi al telefono e comincia a giocare stando sempre al telefono. Ma perché? Perché si tiene in contatto con gli altri suoi complici che stanno giocando su tutte le altre macchine e fanno una rotazione statistica. Ma non è così. Infatti, se c'è la macchina che è gravida, anche questo è il termine tecnico. Gravida. È gravida e sta per sgravare. Vabbè, ma quello succede a caso. Perché non a caso. Uscire fuori la mela con la mela. Ma non la mela con la mela, perché c'hanno un limite di tolleranza le macchinette nel tenere i soldi. Ma al tempo o no, di quantità. Di soldi. Certo. Loro come fanno a sapere quanti soldi? E loro lo sanno perché ormai hanno questa dimestichezza con le macchine. Per cui stanno lì e se si devono assentare perché devono andare sull'altra macchina, cosa fanno? Mettono un biglietto del tram, una cartina dentro la fessura delle monete. Così nessuno può giocare. Loro la tengono lì bella gravida. Poi altre due giocate, ta ta ta. Quindi se tu vuoi vincere devi uno seguire dove sono i cinesi che fanno la posta alle macchinette. Aspettare che mettano la carta. Aspettare che escano, togliere la carta, giocare e vinci. Sperare che vada bene. È così. Vabbè, allora potremmo dirlo a Tremonti di considerare che aumentando le slot machine aumenterà anche questo fenomeno e quindi tutto sommato la gente si potrà arricchire più facilmente. No? Diciamoglielo. Ministro? Io non ho mai capito chi gioca con le figurine Panini. Io ho giocato con le figurine Panini, però non capisco perché un adulto debba continuare a giocare con le figurine Panini. E ora bambini? Ricreazione! Bambino Alberto! Bello, che bello vederti! Che bello vederti! Che novità! Ma mi sembra di cogliere un po' di ironia! No, ma è lui che fa tutta sta roba, sto entusiasmo! Contento, no, perché se pensate che per me sia una cosa entusiasmante stare qua con voi, perché? Ma bambino Alberto, ma di colpo così! Piuttosto di stare qui con voi, andrei anche al gruppo estivo gestito dai preti! Ci andrei anch'io! Questo è il punto dove siamo arrivati! Sì, ma invece ci tocca star qua! Vabbè, ma non si può smettere! Ma di far cosa? Di fare questo! Sono d'accordo, io sono d'accordo! Fare da sei mesi le interviste, smettere, no, per me smettiamo anche subito, forse solo per me, allora, quindi ma così per me dico, per il provveditore agli studi invece non va bene, perché pretende 5 minuti di intervista a giorni alterni. Il provveditore, ma l'asilo, sì, non necessariamente, basta che sia un'intervista fatta a un bambino dell'asilo. Vabbè, allora visto che non necessariamente, questa storia perché deve andare avanti. Quale storia? È questa che dovete intervistare per forza me. Ma guarda che, infatti, ma ha ragione, il bambino alma mater. Chi? Capito? Tu, alma mater. Ah, ma io ho capito un'altra cosa. No, il fatto è che tu sei un bambino pieno di cose interessanti, è per quello che ti intervistiamo. Ah sì, e beh, insomma. Pieno, zitto. Cioè, se la mettiamo su questo piano, allora cambia tutto. Eh sì, tu dici sempre cose molto acute, sì, e spesso sei anche divertente, quindi così che per quello che ti intervisto. Beh, diciamo che un certo talento possiede, no? Diciamolo. Adesso te lo ingrazi, così. Sei un paracuro. Allora, dai. Parliamoci sinceramente. Sì. Io non è che sono un bambino qualunque. Ma infatti, è per quello, eh. Io me ne vado. Allora, questa intervista, cioè, ecco, la facciamo o la chiudiamo qui, sì, no? Però adesso mi cogli impreparato perché per una cosa. Cioè, adesso non ho preparato niente per l'intervista, però. Vabbè, ma allora, scusate, se è per questo? Cioè, l'argomento posso sceglierlo io, no? No, vabbè, ma forse è sempre meglio di quelli che scegli tu. Vabbè, ci mancherebbe, vabbè, dai. Allora, oggi parliamo di vacanze da soli. Ma di nuovo? Cioè, vacanze in solitudine. Ma basta, bambino Alberto, dai. Poi allora, se vi va bene così, ok. Se no, Nisba, Io sarei per Nisba, vabbè, comunque. No, ma siccome, allora, la mia ossessione attualmente è proprio questa. Riuscire nell'impresa titanica, perché è un'impresa titanica, di evitare di andare in vacanza come i genitori. Ma questa l'abbiamo capita, ormai sono dei giorni che ce lo dici. Ho capito anch'io, ma non è mica facile. L'attuazione del piano. Cioè, non è una di quelle cose che ti vengono in mente, ciao, sto in vacanza, faccio la vacanza da solo e lo fai. Bisogna sperare, prima di tutto, che i genitori siano d'accordo. E i miei genitori non sono d'accordo. Questi non sono d'accordo, non sono d'accordo per niente. Cioè, no, tu in vacanza da solo non ci stai. Cioè, in vacanza da solo, a casa. Sì, l'abbiamo capito, dai, allora. L'idea è che io possa starmene a casa col frigo pieno di anguria, l'aria condizionata a palla e sì, vabbè, quei 1.000 euro che servono per le spese così di pochette. Non sono d'accordo, ma l'hai già detto 1.000 volte. Cioè, qual è la novità adesso? Bambino albergo, dai. Vabbè, allora, perché devo insistere? Finché non ottengo il mio risultato. Poi tra l'altro, lì, bambino albergo. No, sì. L'albergo, no, non se ne parla. Perché i miei genitori, non dire albergo davanti ai miei genitori. Ma perché? Perché loro non lo concepiscono. Allora, per loro la vacanza è o campeggio e nell'estrema proprio il camper. Ma cosa c'entra? Il camper già ha una, insomma, certo. Però alla fine andiamo in camper, che mio padre poi c'ha mal di schiena, e nella canadese, poi dopo entra il primo giorno e poi sta dentro una settimana. E perché poi non riesce più a alzarsi, mia madre deve abbronzarsi e io sono cosa? E io sono in macchina, e chiuso in macchina, che mia madre è al mare, mio padre è nella tenda, e tu da in solo macchina. Non mi lasciano e mi chiudo in macchina. Ma non può portarti tua mamma al mare, vabbè, ho capito. Allora a quel punto meglio il camper, no? Che poi dopo è peggio, perché dopo io soffro di claustrofobia. E quindi nel camper non va bene. No, è un incubo, no? Perché voi non siete mai stati in un camper? No, io no. Ma adesso cosa fa l'intervista? Lui perché, a noi? Allora spiegati voi, perché allora almeno ho capito perché non mi capite. Non voglio capire niente. Cioè, stiamo parlando di camper. Io non voglio sapere niente del camper. Ma il camper infatti si soffoca! Una volta che c'è il camper, diventi un camperista. Perché lì è il grave, no? Sì. Come quelli che hanno la moto e diventano motociclisti. Abbiamo il camper. È quasi automatico. Andiamo, iscriviamoci a un club di camperisti. Andiamo a fare la gita in camper tutti insieme. Poi si scambiano le opinioni sui camper, no? Ma il tuo come scarica? Scarica è perché il camper comunque, è pipì, è la cacca. E si fanno in camper, no? Ho capito, lo so. E quindi è brutto. I miei erano un camper, diciamo, ante litteram, cioè un tipo camper. Cioè, praticamente hanno un Volkswagen verde acqua col tetto bianco. Ah, quello hippie, Westfalia. È del 59. Come nel 59? Il furgoncino. Ma loro, perché mio padre quando vuole c'è un bricoleur. Proprio. L'hanno messo un po' a posto, no? Sì. Hanno messo una brandina di ferro per me. Ferro che c'è freddo d'inverno e caldissimo d'estate. Ma tu e tuo fratello dormite la stessa brandina a testa a piedi, com'è? No, ognuno ha la sua. E lì si alterna, cioè tipo come fare le sentinelle, le guardie, lì in due non si può dormire. Ah, ecco. Dormo tre ore io, poi dormi tre ore tu. No, tipo le sentinelle, come il West! Ma bambino allora Alberto, chi comincia? Basta, ma guarda, non ci abbiamo più voglia di sentire queste storie infatti. Di camperisti. Dai, vabbè, ma questo è il mio problema. Dai. Sì, vabbè, è un problema, è il tuo problema. Cioè, basta camper. Per noi non c'è problema. Ma allora, visto che siete stufi anche voi del camper, datemi una mano a risolvere questo problema, cioè convincete i miei genitori a farmi stare a casa. Ma cosa chiedo poi di tanto? Ma perché per loro c'è problema? Per loro c'è grande problema. E allora se per loro c'è grande problema, è un problema. Eh. si guadagna da vivere così. Drago, però, cioè, tu basta, tu devi dire le cose, io devo suonare, come non posso? Tieni il cazzo e dire le cose. Allora, l'indirizzo? Chiedo agire tra radio24.it. Ringraziamo. Mandate... sì, ringraziamo Carmelo Lauricella. Ringraziamo la Claudia Riri. Ricifari. Ringraziamo anche Daniel Plants. Chi ringraziamo? E Alberto Caserini. E tutti quelli che ci scrivono, indovinano i pezzi, indovinano tutto quello che noi chiediamo. F2 Design è il migliore di tutti. Sì, davvero. Tutte lui. Bravo F2 Design.